Incontri di Gianfranco Fabi. Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. Somewhere we can be ourselves. Some of the time, lose your heart, I lose my mind. We'll make quite a pair, dazzling all the time. Fishing for a dream, andare alla ricerca di un sogno con questa canzone. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera e buona estate per quanto resta ai nostri ascoltatori. E buonasera a Michele Fino. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Michele Fino è prorettore dell'Università di Pollenzo. Poi parleremo dell'Università di Pollenzo, ma innanzitutto parliamo di andare a pesca dei sogni, di Twin Breaks. Questa canzone che ha scelto per iniziare il nostro colloquio, che cosa le ricorda? Ma questa canzone ricorda gli anni giovanili in cui si provava a strimpellare la chitarra, perché è una canzone suonata con un arpeggio di acustica molto accattivante. Ricorda la città di Torino, che per i piemontesi comunque è la capitale. Ricorda il fatto di pescare, che ha a che fare con le scienze gastronomiche, e ricorda il sogno e i posti dove ci può essere qualcosa di meglio, che è un po' quello che cerchiamo di fare nella nostra realtà di università. Beh, l'Università di Pollenzo, ecco, per chi non lo sa, forse saranno pochi a non saperlo, ma per chi non lo sa, dove è Pollenzo? Pollenzo si trova nel sud del Piemonte, a metà strada esatta tra Bra ed Alba, ciò significa 40 km da Torino, ai piedi delle Langhe, in un'ansa del fiume Tanaro, dove un re, Carlo Alberto, nel 1840, stimolato dal suo architetto dell'epoca, c'erano già le mode all'epoca, aveva un architetto portoghese, tra l'altro, si chiamava Andrade, che era grande fautore della riscoperta del gotico. È colui che ha fatto rifare gran parte delle architetture valdostane in stile neogotico, ha creato il borgo monumentale di Torino, quello che ancora oggi è molto visitato, e a Pollenzo ha creato l'agenzia, che si chiama così tuttora, anche se non si fanno con polizze di assicurazione, ma significava l'agence, che era il modo francese di chiamare il quartier generale di un'impresa, in particolare di un'impresa agricola che voleva essere sperimentale. E in quel luogo, che poi fu abbandonato alla fine del secolo, all'inizio del 2000 è cominciato un restauro che ha portato nel 2004 ad aprire l'università, la banca del vino e un albergo collocato negli spazi creati allora. Perché l'università è un'università di scienze gastronomiche, questa è la dizione ufficiale, quindi un'università che riguarda unicamente le scienze gastronomiche e tutto quello che gira intorno alle scienze gastronomiche. Quindi come possiamo definire l'ambito di interesse di questa università? Ma è piuttosto agevole, ti ringrazio dell'opportunità. In realtà le scienze gastronomiche sono tutti i saperi che si occupano del cibo, a partire da come viene prodotto, certamente, che è il primo significato che colleghiamo a gastronomia, se non altro per il negozio sotto casa, ma poi soprattutto per andare a tutte quelle forme che hanno visto lo sviluppo di analisi che si dedicano al cibo, per cui partiamo dalla botanica, chimica, tecnologie alimentari, analisi sensoriale, quindi le materie scientifiche dure dedicate alla scoperta dei materiali, dei processi che formano il cibo che consumiamo, alle materie umanistiche che vanno dalla filosofia all'antropologia, per arrivare ovviamente all'economia e al diritto, che non sono meno coinvolti nei processi sociali che regolamentano il consumo del cibo, la sua produzione, la sua distribuzione, e qualche volta sovrintendono anche a quei fenomeni di ingiustizia di cui siamo testimoni in questi anni. Ecco, però Michele Fino, mi pare che hai iniziato la tua carriera occupandoti di diritto romano. Che ci azzecca il diritto romano con le scienze gastronomiche? In realtà ci azzecca abbastanza, perché il diritto romano nel nostro paese ha una tradizione molto lunga, ed ha una tradizione che negli ultimi decenni gli storici del diritto e soprattutto i teorici del diritto hanno di visioni diverse su questo aspetto, ma a me piace pensare, con la logica di alcuni dei più recenti pensatori in questo ambito, ha preso la forma di una teoria generale del diritto che guarda la storia di questo sapere e di questa arte, come la chiama il mio maestro, perché questo è, cioè il diritto è qualcosa che non può esistere se non per l'uso degli uomini e per il bene degli uomini. Dunque, nel momento in cui parliamo di cibo, della sua regolamentazione, degli strumenti che servono a distribuire difenderlo e a mantenerlo disponibile per la più larga parte della popolazione, perché è il fondamento della stessa libertà, il diritto e la sua teoria generale, che col diritto romano ha molto a che fare per ragioni storiche, evidentemente viene tirato in causa. Dopodiché, ovvio che ci sono meno cose di quello che ci si potrebbe aspettare in comune tra il diritto romano e il cibo, se lo si guarda in una logica, diciamo, vecchia, ma se invece si guarda a alcuni problemi che i romani si trovarono a regolamentare nei secoli dell'impero, che hanno molti punti affini alla società globalizzata di oggi, si trovano degli spunti estremamente interessanti anche oggi, dalle regolamentazioni contro le frodi in commercio per finire agli aspetti che riguardano più in generale la disponibilità delle risorse. Ecco, quindi c'è bisogno di diritto, c'è bisogno di regole, soprattutto c'è bisogno anche di responsabilità personale e sociale. Anche questo si insegna all'università di Pollenzo. Eh beh sì, perché l'università weberianamente è a valutativa, cioè da noi si studia il cibo e si studiano i processi legati alla produzione del cibo, la sua trasformazione e distribuzione, senza esprimere un giudizio di valore, senza dire noi siamo per un sistema o un altro. Però è chiaro che riteniamo che la cultura non sia fine a se stessa, ma debba alimentare la responsabilità di chi sa di lavorare con ciò che è il fondamento della vita, perché questa, insieme alla respirazione, è l'unica cosa che siamo veramente obbligati a fare da che nasce. Ecco, diamo qualche consiglio ai giovani. Chi può iscriversi all'Università di Pollenzo? Che obiettivi deve avere? Quali sono le prospettive che può avere chi partecipa, chi frequenta i corsi di questa università? Innanzitutto, chi vuole iscriversi all'università deve guardare a questo con un certo anticipo, perché stiamo parlando in agosto e ormai il tempo delle iscrizioni è agli sgoccioli, in quanto noi abbiamo un processo di selezione piuttosto lungo e anche fortunatamente piuttosto severo, perché abbiamo più domande di quante persone possiamo accogliere. Chi vuole venire a studiare a Pollenzo di solito è una persona con una forte motivazione per lavorare con l'ambito del cibo, ma non squisitamente con una direzione soltanto, cioè naturalmente l'ambito imprenditoriale, la gestione delle risorse, la selezione dei prodotti, il management in generale legato al cibo sono una chiave importante, ma anche la sua comunicazione e anche il cosiddetto terzo settore, perché c'è gran parte dell'attività di ONG che è legata proprio ai problemi connessi al cibo, al diritto al cibo, e quindi c'è una quota di studenti che si occupano di questo anche dopo la loro laurea presso di noi. Questo per quanto attiene la laurea triennale. Per quanto attiene invece la laurea magistrale, la maggior parte di studenti provengono da altri atenei, hanno fatto una laurea triennale prima in buona parte di economia. Da noi vengono ad approfondire i processi che legano una buona amministrazione aziendale con l'attività di produzione, trasformazione e distribuzione del cibo, e poi lavorano spiccatamente in aziende o si mettono in proprio. Noi abbiamo oggi già un 20% circa di ex studenti che danno vita alla loro impresa, puntiamo ad aumentare questa quota perché ci piace pensare di essere un po' lievito. Con i nostri numeri piccoli non potremo mai essere farina, però essere lievito, questo. Ecco, magari non per quest'anno, ma un giovane che può pensare negli anni prossimi può cominciare a guardare a questa possibilità, appunto di specializzarsi nelle scienze gastronomiche, che è appunto una realtà comunque strettamente legata all'industria, un'industria alimentare che in Italia ha grandi potenzialità molte volte inespresse. Certamente sì, però mi permetto un appunto, forse non è così legata all'industria, è più legata a un'integrazione di produzione, di processi, che in realtà è più avanzata di questo elemento. Oggi in Italia ci sono circa 2 milioni di aziende alimentari, l'80% ha meno di 9 dipendenti, non è così legata alla dimensione industriale, è più legata a una dimensione di efficienza e di legame con il territorio, che è il vero asset fondamentale dell'Italia. Per questo, accanto alla laurea triennale magistrale, abbiamo dei percorsi master molto focalizzati sulla conoscenza dei terroir italiani. Ecco, ma è un elemento appunto che approfondiremo nella seconda parte del nostro programma, perché l'industria alimentare ovviamente parte dal basso, parte dalla terra, parte dall'agricoltura, poi ha bisogno della trasformazione, ha bisogno della commercializzazione, ha bisogno di tante altre cose che indubbiamente possono sollecitare l'attenzione e l'interesse, ma anche che hanno grandi opportunità di lavoro, e in Italia di possibilità e di opportunità di lavoro ce n'è grande bisogno. Proseguiremo tra poco il nostro colloquio con Michele Fino, correttore dell'Università di Pollenzo. Restate con noi. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18:30, solo su Radio 24. questo non credo. Incontri. Ancora con le note dei Touring Waves, Fishing for Dream, andare alla ricerca, andare a pesca di un sogno. Riprendiamo il nostro incontro con Michele Fino, prorettore dell'Università di Pollenzo, Università di Scienze Gastronomiche. Ci ha spiegato nella prima parte del nostro programma come funziona questa università, università appunto aperta, tutte le problematiche alimentari dell'industria alimentare, della produzione alimentare, della valorizzazione alimentare in Italia. Università aperta ai giovani, università a numero chiuso, in cui si può pensare appunto di iscriversi, ma con un certo anticipo, stanno chiudendosi le iscrizioni per quest'anno, ma chi è interessato, se i giovani possono pensarci anche per gli anni prossimi. Quanti siete all'Università di Pollenzo, Michele Fino? Oggi Pollenzo ha all'incirca 500 studenti all'anno, alla forma di un piccolo college, anche se gli studenti non sono trattenuti nella struttura anche per la sera, perché vivono per la maggior parte tra Bra ed Alba e danno vita anche a una bella comunità, perché i numeri della regione sono piccoli e quindi sono un fermento importante. Siamo circa 500, pensare che 11 anni fa erano 60 la prima classe è già un bel risultato, e soprattutto un bel risultato che il 52% di loro sia straniero, e ad oggi sono arrivate a Pollenzo oltre 60 nazionalità diverse negli anni. Ecco, i primi studenti che sono usciti, che sono laureati all'Università di Pollenzo, che cosa fanno? I primi studenti lavorano soprattutto nella ricerca e sviluppo, lavorano nella ricerca dei prodotti, nella selezione, nel cosiddetto F&B management, lavorano nella comunicazione, lavorano per consorzi di tutela, lavorano quindi nella valorizzazione, perché il loro percorso di studio è un percorso che fornisce loro di un bagaglio particolarmente adatto a svolgere questo tipo di attività immediatamente dopo la loro laurea. Poi c'è anche chi ha continuato gli studi, chi ha proseguito con lauree specialistiche in altri atenei, con master anche all'estero, e quindi è un corpo di studenti molto variegato, che però ha i suoi rituali. I nostri alunni tornano regolarmente a Pollenzo, in particolare in occasione delle feste comandate, CISA. Grandi pranzi probabilmente. Beh sì, effettivamente grandi manifestazioni. CISA quest'anno a settembre ne vedrà un buon numero tornare su Bra, e poi il Salone del Gusto ogni due anni. Ecco, quindi è una università che si basa appunto sulle capacità proprie dell'Italia di avere delle produzioni agricole e alimentari di avanguardia, ma che hanno necessità di essere valorizzate. Come mai si è fatto poco negli anni passati? Cosa si sta facendo per valorizzare adesso questa realtà italiana? Ma l'Università di Scienze Gastronomiche è nata da un'idea che Carlo Petrini, insieme ai padri fondatori, che sono Alberto Capatti, ma anche Massimo Montanari dell'Università di Bologna, ha messo a punto all'inizio degli anni 2000, intuendo quella che poi si è rivelata essere una realtà, ovvero che l'alimentare era stato considerato nell'ambito della industria italiana come un segmento industriale, puramente semplicemente. Questo aveva portato la sua considerazione all'interno di ambiti piuttosto stagni tra di loro, quindi le tecnologie alimentari nelle facoltà di agraria, l'economia e il business management nelle facoltà di economia aziendale, e tutto questo aveva tenuto separati dei saperi che invece se ne potevano occupare, con un grande detrimento per storia, antropologia, filosofia, che invece i fondatori ritenevano dovessero fermentare insieme agli altri comparti. Per questo hanno voluto un'università che portasse il suo contributo attraverso questa visione olistica, che cerca di mettere insieme, riconoscendo a priori pari dignità a saperi e scienze esatte, non nella prospettiva di fare un abbassamento di attenzione rispetto al rigore scientifico, non ci mancherebbe altro, ma nella prospettiva di aprirsi al dialogo, riconoscendo che il dialogo c'è quando ci si riconosce tra pari, altrimenti è una predica. C'è un dialogo anche tra le varie discipline che poi appunto possono contribuire a questa valorizzazione, una valorizzazione che forse è mancata nei decenni passati, poi si è riscoperta anche con iniziative molto positive. Carlo Petrini indubbiamente ha avuto un grande ruolo nel portare avanti la dignità, possiamo così, del cibo italiano. Possiamo ricordare Farinetti con il suo Italy, che ha realizzato appunto anche all'estero una grande valorizzazione per il made in Italy alimentare e per le cose buone. Assolutamente, ma possiamo ricordare anche Gino Veronelli, possiamo ricordare tanti italiani che hanno lavorato per l'alimentare di qualità di questo paese. Certamente dalla fine degli anni Ottanta c'è stato un fermento incredibile, e noi ne abbiamo visto tutti. Dobbiamo ricordare Davide Paolini, che ogni settimana su Radio 24 con il suo Gastronauta viaggia attraverso l'eccellenza alimentare italiane. Ma assolutamente sì, fronte. Ed è anche una persona che abbiamo molto piacere di vedere ogni volta che è possibile, oltre che di ascoltarlo. No, il fatto è che noi pensiamo veramente che ci possano essere tante vie per la promozione dell'agroalimentare italiano, come ci possono essere tante vie per promuovere un approccio al cibo che sia più responsabile e più sostenibile a livello globale. Per cui certo, hai nominato Italy, che il cui presidente è anche presidente dell'associazione Amici, perché lo ricordo, la nostra università è una non statale, noi viviamo di rette e del contributo delle aziende che sostengono il nostro sforzo didattico. Per cui quando Oscar ha presentato nel 2006 l'idea di Italy Torino, che poi è stato il campione di ciò che è diventato a livello mondiale, da allora l'interesse dalle nostre parti è rimasto molto alto, e oggi sono molti gli ex studenti che lavorano in quell'impresa. Ecco, su quella scia poi si stanno creando altre realtà che stanno portando un po' in concorrenza, ma soprattutto con la capacità di sfruttare tutte le occasioni di mercato, stanno portando il Made in Italy anche all'interno dell'Italia, perché c'è un certo sciovinismo ogni tanto sul fronte italiano, ma la realtà italiana può offrire una grande quantità e soprattutto qualità di produzione. Assolutamente sì, e infatti in questo senso noi non ci fermiamo, perché possiamo collaborare con un gruppo di aziende. Noi abbiamo 35 partner strategici e poi abbiamo un gruppo molto più ampio di soci sostenitori con i quali sviluppiamo dei processi di innovazione, e da alcuni mesi ha aperto in Milano un luogo simbolo di questo, che è il Mercato del Duomo, realizzato con autogrill sul lato della Galleria Vittorio Emanuele, e in quella location si vede un'altra idea di promozione dell'agroalimentare attraverso il recupero dell'idea del mercato coperto, che alimenta i ristoranti, alimenta il consumo di cibo da quello più che a quello invece più seduto e raffinato, che richiama alle guide stellate. Questo perché siamo convinti che non ci debba essere una idea giusta riguardo al cibo, ma che bisogna battere diverse strade allo scopo di offrire più possibilità al consumatore, perché come ama dire il nostro presidente, quello che è veramente morto è il consumatore privo di senso critico, passivo. E totalmente passivo. Quello è veramente una tendenza finita, perché siamo in un'epoca di over information ed è evidente che tutto questo sviluppa un'attenzione che richiede continuamente nuovi stimoli. Certo, bisogna trovare forse un equilibrio tra chi vive per mangiare e chi mangia per vivere, in fondo. Assolutamente sì. Ecco, assolutamente. Ma parlando appunto di cibo, di alimentazione, di agricoltura, non possiamo non citare l'Expo di Milano, che è arrivato ormai, ha fatto il suo giro di boa, insomma. Quindi come giudica questa realtà, questo Expo milanese? Ma l'Expo milanese, come tutti sanno, che ha avuto dei giudizi da parte del nostro mondo, della nostra università e del nostro presidente, che sono stati dei giudizi in alcuni momenti fortemente critici, e questo si può capire bene. Nel 2008 Carlo Petrini è stato, insieme all'allora sindaca di Milano Letizia Moratti, promotore dell'assegnazione, dietro un tema che era un tema di discussione dei grandi problemi legati al diritto al cibo. Certo. La realizzazione che ne è venuta fuori, diciamo che in modo eufemistico, si è un po' allontanata dal tema del diritto al cibo e si è avvicinata invece un pochino di più a un Food Gardaland, che è certamente è molto attrattivo, ha avuto delle realizzazioni architettoniche di assoluto livello ed è stato realizzato in tempi da record con uno sforzo veramente encomiabile. Però rimane un pochino al rammarico per quell'occasione un pochino perduta di parlare dei problemi legati alla distribuzione, alla giustizia legata al cibo, che veramente ad Expo avrebbero potuto trovare un palcoscenico. Forse era un po' inevitabile andare verso un'impostazione un po' commerciale, un po' di richiamo, un po' di risonanza, e quindi però indubbiamente anche il fatto di mantenere questa osservazione sul diritto al cibo, sull'eguaglianza e sulla dignità che deve esserci dietro a ogni politica alimentare, forse è certamente opportuno anche in questa fase. Direi soprattutto in questa fase, perché vede, molto spesso i numeri vengono citati per sostenere le proprie visioni in modo che li interpreta un pochino ad usum delfini, si dice in ambito giuridico, ovvero quando si dice che nel 2050 rapporto FAO, 2050 Feed the Planet, parla di 9 miliardi di viventi sulla Terra, il bisogno di aumentare le risorse, questo non è quello che è scritto in quel rapporto. Ciò che è scritto in quel rapporto è che bisogna razionalizzare e migliorare la distribuzione delle risorse, perché noi già oggi produciamo per ben più più di 9 miliardi di persone. Quindi è chiaro che pensare che dobbiamo implementare una logica produttivistica a discapito di qualunque ricaduta ambientale non lo dice Carlo Petrini, lo dice il buon senso della massaia di Voghera, come si diceva una volta. Certamente, lo slow food, cioè bisogna mangiare meno ma mangiare meglio forse. Certamente, ma anche vivere secondo una sobrietà che Papa Francesco, che ormai è in contatto, voi sapete, molto diretto con il nostro Presidente, sostiene apertamente, e che è una visione onestamente che può essere certamente giudicata utopica, ma d'altronde la politica senza utopie ad indirizzarla veramente cosa di bassa macelleria. Ecco, in una università i giovani come si avvicinano a questa realtà? Sono, diciamo così, recettivi rispondo a queste problematiche, a questi valori? Direi che i giovani sono i più recettivi rispetto a queste tematiche, a questi valori. La nostra vita universitaria è animata da un'associazione di studenti, da una condotta degli studenti, da un gas degli studenti, e gli studenti sono promotori di una serie di appuntamenti e di approfondimenti culturali che per la maggior parte hanno questo tipo di focus, certamente molto di più che non i focus di carattere imprenditoriale. Certo. Come se i ventenni avessero i focus di carattere imprenditoriale, ci sarebbe da preoccuparsi. Un'ultima domanda per Michele Fino, professore dell'Università di Pollenzo, professore prorettore dell'Università di Pollenzo. Abbiamo iniziato parlando di inseguire i sogni. Qual è il tuo sogno che sta inseguendo in questo momento? Ma il sogno che inseguo in questo momento è riuscire a completare il processo di istituzionalizzazione di questa università, che certamente è nata in un modo rocambolesco, è nata da un'intuizione geniale, dalla volontà di una ministra, allora ancora Letizia Moratti, che ha riconosciuto in questa università un possibile sviluppo per il paese, e che oggi ha bisogno assolutamente di raggiungere la sua piena maturità con dei numeri, con il sostegno, anche con il riconoscimento pubblico che merita questo comparto e che merita un'università completamente dedicata a questo comparto. Ecco, uno dei temi importanti in questo momento è quello dell'occupazione. In questo settore ci sono prospettive di crescita, ci sono prospettive di occupazione per i giovani, ci sono prospettive anche di carriera? Assolutamente sì, è l'unico settore che rispetto al PIL italiano presenta dei dati di crescita incredibili. Oggi lo sappiamo benissimo, negli ultimi 3 anni di grave crisi, con un PIL italiano che è andato in negativo per 3 anni di fila, il PIL invece dell'alimentare è cresciuto, e l'osservatorio sulle aziende agroalimentari della nostra università questo lo attesta. Con questa speranza di poter crescere e di poter migliorare anche in termini di qualità, grazie a Michele Fino di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi dell'ospitalità. Così come ringraziamo Andrea Roccabella in regia e Luca Cremonese in redazione, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, e per quanto resta, buona estate e buona domenica.